Salve a tutti, io sono Jasmine, questa è Radio Big World e benvenuta ad una nuova puntata di Curiosità Animate, dove parlo dei classici Disney. Il film di cui parliamo oggi è Lilo e Stitch, considerato il 42esimo classico Disney ed è un film del 2002. La pellicola ha una storia e un'ambientazione molto diversi rispetto ai precedenti film Disney. Infatti possiamo definire questa era degli studios come la più sperimentale. La trama vede come protagonista un alieno, chiamato Esperimento 626, che viene considerato pericoloso da questa società galattica, e suo creatore Jumba viene processato. Durante questo processo Stitch scappa e finisce sulla Terra, precisamente in un'isola delle Hawaii. Viene scambiato per un cane e poi viene portato al canile della città, dove verrà poi adottato dalla piccola Lilo e da sua sorella più grande, Nino, che sarà anche la sua unica tutrice. Stitch nel frattempo però ha alle calcagna il dottore e anche altri agenti galattici, tra cui gli agenti della CIA. Ma la bambina Lilo non lo sa e Stitch quindi vivrà con la bambina avendo questi episodi molto aggressivi, però grazie all'affetto di Lilo riuscirà a calmarsi e a diventare un essere più compassionevole e decisamente più calmo. Ma purtroppo, verso la fine del film, Lilo e Stitch vengono rapiti dal dottore e dagli agenti della CIA, ma grazie all'amicizia con la bambina, Stitch riesce a liberare entrambi e a dimostrare di essere un essere rispettoso e compassionevole e riesce a rimanere quindi sulla Terra con i suoi nuovi amici. Il film, grazie alla trama molto empatica e anche molto simpatica, decisamente matura rispetto agli altri film, è riuscita ad avere un ottimo successo al botteghino. Tanto che fu anche candidato all'Oscar, ma perse con il film di Miyazaki, La città incantata, e inoltre ebbe vari seguiti, tra cui anche una serie TV animata da 65 episodi. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World, e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.